Sant'Agostino, le mie confessioni. Libro quinto, capitolo ottavo. Partenza per Roma. Fu dunque per la tua azione verso di me che mi lasciai indurre a raggiungere Roma e a insegnare là piuttosto che a Cartagine. Certo, anche in questa circostanza si deve riconoscere e proclamare la tua misericordia verso di noi, misteriosa e pur sempre presente. Ecco, a raggiungere Roma non fui spinto dalle promesse di più alti guadagni e di maggiori onori, come mi lusingavano e sollecitavano gli amici. Bensì anche queste prospettive non mi dispiacessero. No, l'unica e vera ragione fu un'altra. Sentivo dire che a Roma i giovani studenti erano più quieti e docili alla disciplina, a differenza di quelli di Cartagine, i quali, arrogantemente, cambiano professore con facilità e senza una precisa ragione, creando confusione e scompiglio. A Roma no, per questi cambiamenti si richiede il permesso del maestro. Invece qui a Cartagine l'eccessiva libertà degli scolari è indecorosa e sregolata. Irrompono sfacciatamente nelle aule durante le lezioni, col volto infuriato e gridando all'impazzata. Sconvolgono l'ordine che il maestro aveva instaurato per il profitto degli alunni. Come fossero degli ubriachi, commettono ogni sorta di vandalismo, degno di essere punito severamente, se le leggi funzionassero. Ormai la tradizione che si è instaurata rende quasi lecito quel che commettono, a loro maggior vergogna. Secondo la tua legge, invece, non sarà mai lecito, e pensano di agire impunemente, mentre vengono puniti dall'insensatezza che li acceca. Così ne riportano un danno personale peggiore di quello che hanno commesso. Io, da studente, non avevo mai voluto contrarre simili abitudini, e adesso, da insegnante, ero costretto a doverle subire. Per questo desideravo trasferirmi a Roma, dove, a quanto mi dicevano, tali fatti non succedevano. Veramente eri tu, mia speranza e mia sorte nella terra dei viventi, a indurmi a cambiare città per il bene della mia anima. Sono io la tua salvezza, sembrava mi dicessi. Così suscitavi in me dei motivi per potermi staccare da Cartagine e dei motivi che suscitavano in me il desiderio di andare a Roma. Per questo ti servivi di gente che ama una vita morta. Qui a Cartagine perdono tempo a commettere pezzie e prospettando di là a Roma promesse vane. E per mettermi sulla strada buona ti servivi segretamente della loro e della mia perversità. Quelli che disturbavano il mio lavoro di insegnante erano accecati da un furore malsano. Gli altri che mi spingevano a partire per Roma erano tutti intenti alle cose della terra. Ed io, qui a Cartagine, detestavo questa miserevole realtà. Là, a Roma, andavo in cerca di una vana felicità. Ma le ragioni per cui lasciavo Cartagine per Roma tu le conoscevi, oh Dio mio, anche se non le rivelavi né a me né a mia madre, che pianse atrocemente la mia partenza. Mi seguì fino al porto, mi strinse forte a sé, quasi non volesse staccarsi mai, nella speranza di dissuadermi dal viaggio, o altrimenti partire con me. Io la ingannai, dicendole che ero lì per accompagnare e salutare un amico che doveva partire, mentre si attendeva il vento favorevole. Mentì a mia madre, a quella madre. Eppure scampai, perché la tua misericordia mi perdonò anche questa colpa. Mi salvò dalle acque del mare, malgrado le secrande mie nefandezze, per condurmi all'acqua di grazia. Le abluzioni di quest'acqua di grazia, il battesimo, avrebbero asciugato i fiumi delle lacrime che ogni giorno scorgavano dagli occhi di mia madre e irrigavano la terra sotto il suo volto. Si rifiutò di tornare indietro senza di me, e faticai a persuaderla di passare la notte nell'interno di una chiesetta dedicata a Beato Cipriano, vicinissima alla nostra nave. Ma in quella stessa notte io partii di nascosto. Ella rimase nella chiesetta a pregare e a piangere. E cosa ti chiedeva, Dio mio, con tante lacrime, se non di impedire che io partissi? Ma tu ormai avevi il tuo piano per la mia salvezza e non ascoltasti quanto ti chiedeva in quel momento, perché già avevi accolto quello che maggiormente l'assillava ed era motivo delle sue continue preghiere e delle sue lacrime. Finalmente soffiò il vento favorevole e gonfiò le vele. Flavit ventus et implivit vela. e la nave partì. La spiaggia scomparve ai nostri occhi. La mattina ella, mia madre, folle di dolore, riempiva le tue orecchie di gemiti e di lamenti, ma tu non l'ascoltavi in quel momento, non ti curavi del suo profondo dolore. Quali disegni mirabili tu nascondi ai nostri occhi, oh Signore. Ti servivi della mia ambizione e delle mie passioni proprio per liberarmi e dell'una e delle altre. E la disperazione di mia madre quella mattina ti serviva per distaccarla da un affetto troppo morboso per me. Amava la mia presenza vicino a lei, come tutte le madri, ma in modo più intenso. Sembrava che tu non l'ascoltassi. Invece non immaginava quante gioie le avresti procurato con la mia partenza. Non lo immaginava. E perciò piangeva e gemeva. Era una vera discendente di Eva. Mi partoriva una seconda volta nel dolore, come mi aveva partorito nel dolore la prima volta. Tuttavia, dopo avermi accusato di falsità e crudeltà per averla così ingannata, tornò a implorarti per me mentre io veleggiavo la volta di Roma. Capitolo 9. Arrivato a Roma si ammala. Ed ecco, appena giunto a Roma, mi accolse il tormento della febbre. Temevo di andarmene agli inferi con il carico di tutte le colpe commesse contro di te, contro di me e contro il prossimo. Colpe numerose e gravi, aggiunte al peccato d'origine, quello di Adamo, a causa del quale venne la morte. Nessun peccato finora mi era stato perdonato nel nome di Cristo, né egli aveva pagato sulla croce l'inimicizia che io avevo contratto per te per i miei peccati. Ma come poteva pagarla quel Gesù sulla croce, che io allora credevo un fantasma e non un corpo reale, tanto vera era la morte nell'anima mia. Così, come era vera la morte in croce del suo corpo, tanto era falsa la mia vita, che non credevo in lui. La febbre intanto aumentava ed io ero lì lì per andarmene, e andarmene in perdizione. Dove infatti sarei andato se fossi morto, se non al fuoco e ai tormenti, meritati per i miei misfatti, commessi contro la verità dei tuoi comandamenti? Mia madre non sapeva della mia malattia, ma seppur assente, pregava per me. E tu, che sei presente in ogni luogo, eri presente dove era lei, e la esaudivi, ed eri presente dove ero io, per avere pietà di me. Infatti, recuperai la salute, ma rimasi malato nel cuore, traviato. Eppure, anche in un pericolo così grave, non mi preoccupai del battesimo. Ero più buono da piccolo. Allora lo richiesi con insistenza a mia madre. Adesso, divenuto adulto, desideravo il battesimo, medicina salutare per la nostra salvezza. Non permettesti che io morissi due volte, trovandomi in quella situazione di peccato, morte fisica e morte eterna. Il cuore di mia madre non si sarebbe mai più dato pace. Troppo grave il sapermi morto in peccato, una ferita insanabile. Non dirò mai abbastanza dell'affetto che mia madre aveva per me, e quanto grande era la sollecitudine nel riuscire a partorirmi la grazia, più di quanta ne ebbe nel partorirmi nella carne. Non vedo, infatti, come avrebbe potuto risanarsi. La notizia della mia morte in quello stato avrebbe trafitto in modo irreparabile le viscere esuberanti di affetto per me. Dove sarebbero finite le preghiere così ferventi, che ripeteva senza interruzione davanti a te? Avresti tu, Dio di misericordia, potuto trascurare il cuore contrito e umiliato di una vedova casta, sobria, assidua nell'elemosina, devota e sottomessa ai tuoi ministri, che non lasciava passare giorni senza recare l'offerta al tuo altare, che due volte al giorno, mattina e sera, visitava la tua chiesa, senza mancarvi mai. E non andava in chiesa per confabulare e pettegolare, come di solito fanno le donne, le vecchiette, ma ci andava per pregare e ascoltare la tua parola. Lei ascoltava te e tu ascoltavi lei. Non ti chiedeva per me oro e argento, né onori e vanità di questo mondo che passa, ma ti chiedeva con lacrime la salvezza dell'anima mia. E tu avresti osato non ascoltare e disprezzare le sue lacrime, tu che l'avevi dotata di tanta grazia? Certamente no. Tu, Signore, gli eri vicino, li esaudivi e predisponevi con ordine ciò che già avevi prestabilito di fare. Lungi da me il pensiero che tu l'avresti potuta ingannare nelle sue visioni e nei tuoi responsi, delle quali ho già parlato e di quelle che non ricordo. Ella li custodiva gelosamente nel suo petto, e li presentava a te nelle sue preghiere, come a ricordartelo e a mostrarti la tua firma. Pertanto, era sicura che tu avresti mantenuto l'impegno. Sì, grande ed eterna è la tua misericordia nel rimettere tutti i nostri debiti. Anche tu sei debitore con noi delle promesse fatte. Capitolo 10. A Roma vive con i manichei. Dunque, tu mi guarissi da quella malattia e salvassi il figlio dalla tua ancella. Allora mi disseranti nel corpo, come caparra che un giorno mi avresti dato una salute più preziosa e sicura. E anche a Roma mi ero unito a quei santoni, falsi e inaffidabili, che ti ingannano con le loro scemenze. Erano gli eletti della setta, mentre io abitavo nella casa di un uditore, di colui che mi accolse malato appena giunto a Roma. Era ancora del parere che non siamo noi a peccare, ma un'altra natura, chissà poi quale. Questo concetto lusingava la mia superbia, mi scagionava dalla responsabilità di considerarmi io l'autore dei miei peccati. Avrei dovuto dire, pietà di me, Signore, risanami, perché ho peccato contro di te. Invece, preferivo scusare la mia coscienza per il peccato commesso contro di te e accusare un'entità ignota dentro di me, ma che non ero io. In verità, io non ero diviso, ero tutt'uno come persona, la mia impietà che mi aveva diviso nell'intimo. Ma il peccato difficile da sanare era quello che non mi consideravo peccatore, ed esecrabile iniquità il preferire che fossi tu, Dio onnipotente, a operare in me la mia rovina, causa del mio peccato, invece di pensare di affidarmi a te per ottenere la salvezza e il perdono. Non avevi ancora posto una custodia alla mia bocca e una porta di sorveglianza alle mie labbra, perché il mio cuore non si piegasse al male e compisse azioni inique contro i peccatori, per trovare poi delle scuse ai propri peccati. Pertanto la pensavo ancora come i loro eletti, ma ormai disperavo di poter progredire in quella falsa dottrina. Ritenni tuttavia di rimanervi ancora, però senza entusiasmo, con freddezza e indifferenza, finché non avessi trovato una dottrina più convincente. Mi era sorta infatti l'idea che più accorti di tutti i filosofi fossero stati i cosiddetti accademici, i quali avevano affermato che bisogna dubitare di tutto e avevano sentenziato che l'uomo non potrà mai raggiungere e comprendere la verità. Questo era quello che sentivo dire comunemente, ma non avevo ancora compreso le loro intenzioni. Così raccomandai al mio ospite romano di non dare eccessiva fiducia, come dimostrava di avere, a quelle favole, delle quali sono pieni i libri manichei. Tuttavia mi mantenni in stretti rapporti di amicizia con loro, senza andare a cercare quella di altri non iscritti alla nostra setta. Però non mi accaloravo più nel propagandare quella dottrina. Roma era piena di manichei, anche se occulti per le pene emanate dagli imperatori. E io mi trovavo bene in loro compagnia, tanto che ero diventato pigro nella ricerca di altre dottrine, specialmente non avevo più fiducia di trovare la verità nella Chiesa Cattolica. Signore del cielo e della terra, creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Mi avevano allontanato loro, i manichei. Eppure mi ripugnava e lo ritenevo turpe il pensarti, oh Dio, come una figura umana, che ha carne, membra e limiti come i nostri corpi mortali. E quando volevo pensare al mio Dio, non potevo fare a meno di immaginarlo come una massa corporea, perché questa era la mia fede. Niente esiste di incorporeo. E questa era la causa principale, e forse la sola, del mio inevitabile errore. Capitolo 20. Il male pensato come sostanza. Di conseguenza, credevo che il male fosse una sostanza, composta di una massa tenebrosa e deforme, da una parte densa, che veniva chiamata terra, dall'altra parte sottile, evanescente come la sostanza dell'aria, una specie di spirito maligno che alita sulla terra. Così i manichei immaginavano il male, ma quella certa religiosità che avevo in me mi impediva di credere che un Dio buono potesse aver creato una natura cattiva. Così dividevo le due masse, contrapposte tra di loro, benché tutte e due infinite, ritenevo quella cattiva più limitata, quella buona invece assai estesa. Da questo principio pestifero derivavano tutte le mie idee sbagliate, e se nell'animo mi sentivo spinto verso la fede cattolica, venivo subito bloccato, perché non era fede cattolica quella che allora era nella mia mente, e mi sembrava un concetto più religioso e pio. O Dio mio, la cui misericordia ti rende grazie per me, il crederti infinito in ogni parte, eccetto in quello in cui trovavi di fronte la massa del male, che pensarti un corpo umano, limitato da ogni parte. Così mi sembrava meglio credere che tu non hai creato alcun male, anziché derivata da te la natura del male come la pensavo io. Infatti, nella mia ignoranza, io credevo che il male non fosse solo una sostanza, ma addirittura una sostanza corporea, perché non potevo immaginare uno spirito, anche sottile, che non fosse corporeo, benché diffuso nello spazio. Così io credevo che il nostro Salvatore, il tuo unigenito figlio, fosse una emanazione della tua massa corporea, uscito dalla tua luminosissima mole per la nostra salvezza. Di lui credevo solo quello che poteva immaginare la mia vanità. Certamente non poteva nascere dalla Vergine Maria una natura come la sua, così come io la pensavo, senza unirsi alla carne. E non riuscivo a rendermi ragione che un essere come io lo pensavo, una volta unitosi alla carne di Maria, non venisse inquinato. Pertanto ero titubante nell'ammettere che fosse nato nella carne, per non ammettere poi che fosse inquinato dalla carne. I tuoi fedeli, o Signore, anime buone e spirituali, se leggeranno queste mie confessioni, rideranno di me. Spero abbiano comprensione e mi compatiscono. Ma allora io la pensavo così. Capitolo undicesimo. Critiche dei manichei alle sacre scritture. I manichei, inoltre, criticavano alcuni passi delle sacre scritture e a me sembrava di non poterle confutare. Mi sarebbe piaciuto discuterne con qualcuno che avesse avuto profonda conoscenza di quei libri e sentire cosa ne pensasse. A Cartagine c'era un certo Elpidio che discuteva pubblicamente con i manichei e non era facile per loro rispondere alle sue asserzioni. Aveva incominciato a interessarmi il suo ragionamento, mentre le risposte dei manichei erano assai deboli. A noi della setta li spiegavano in segreto, non in pubblico. Ci dicevano che gli scritti del Nuovo Testamento erano stati falsificati, non si sa da chi, per inserire nella fede cristiana la legge giudaica, ma non riuscivano a trovare un testo integro, non falsificato, da presentarci come controprova. Io, ancora incapace di concepire un essere incorporeo, rimanevo soffocato da quelle due masse corporee del bene e del male, mentre anelavo di respirare l'aria limpida e pura della tua verità. Purtroppo ancora non riuscivo a liberarmene. Capitolo dodicesimo. Gli scolari romani. Iniziata con buona volontà l'attività per cui ero venuto a Roma, cioè l'insegnamento della retorica, cominciai ad adunare in casa mia un buon numero di allievi, ai quali, e grazie ai quali, cominciai a farmi conoscere. Ed ecco, vengo a conoscenza di certe abitudini romane, diverse da quelle che dovevo subire in Africa. A Roma, infatti, non si verificavano i famigerati disordini degli scolari depravati di Cartagine. Però mi dissero che gli scolari romani, per eludere il pagamento dovuto al professore, usavano mettersi d'accordo per lasciarlo in asso e tranquillamente passano alla scuola di un altro professore, tradendo così la buona fede e calpestando la giustizia per amore del denaro. In cuor mio odiavo costoro, non però con odio perfetto come dice il Salmo, li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici. Forse mi dispiaceva più il danno che ne ricevevo io, che non il loro comportamento sfacciato. Certo, il loro comportamento era turpe. Perirà chi da te si allontana. Amano l'effimero di questo mondo che passa e lo sporco denaro che inquina le mani che lo toccano. Si delettano di queste mondanità fuggenti e disprezzano te, che vivi in eterno. Eppure tu li richiami e perdoni chi a te ritorna e accogli la povera anima meretrice tra le tue braccia. Anche ora non posso sopportare gente malvagia e corrotta. Tuttavia amo correggerli perché al denaro antepongano quella dottrina che insegna a preferire te, Dio vero, verità e fecondo di beni insicuri e di castissima pace. Allora, però, sopportavo quegli scolari per mio interesse, invece di renderli migliori per amor tuo. Capitolo tredicesimo. A Milano. Nel mentre, da Milano, allora capitale dell'impero, avevano richiesto a Roma, al prefetto Simmaco, un professore di retorica da inviare subito a mezzo trasporto pubblico a spese dello Stato. Feci di tutto per ottenere quel posto, anche con l'aiuto dei fratelli manichei, esaltati per la scelta di uno della loro setta a ricoprire un così alto incarico, e non sospettavano che la mia partenza per Milano mi avrebbe definitivamente staccato da loro. Così il prefetto Simmaco, dopo una prova di oratoria, mi inviò a Milano. Appena giunto a Milano, andai ad ossequiare il vescovo Ambrogio, uno tra i migliori, conosciuto in tutto il mondo, un degno del tuo ministro, celebre per la sua eloquenza. dispensava in modo instancabile ai suoi fedeli la sostanza del tuo frumento, la letizia del tuo olio e la sobria ebbrezza del tuo vino. Eri tu, o Signore, che mi conducevi da lui, senza che io lo sapessi, perché lui poi mi conducesse a te, ormai consapevole anch'io di questo tuo disegno di grazia. Quell'uomo di Dio mi accolse come un padre e si compiacque di quel mio peregrinare a Milano, da vero vescovo, da solerte pastore. Presi subito ad amarlo per il momento, certo, non come maestro di verità, ma come persona che mi mostrava la sua benevolenza. Non avevo ancora speranza di trovare la verità nella tua chiesa. Frequentavo assiduamente le sue catechesi pubbliche. Volevo sincerarmi se la sua eloquenza meritasse la fama di cui godeva, se era maggiore o minore. Stavo attento, sospeso alle sue parole. Non mi interessava però ciò che diceva. Erano argomenti che io allora disdegnavo. Mi incantava la soavità della sua parola. Era più dotta, meno gioviale però, e meno suadente di quella di Fausto, quanto alla forma. Per quanto riguarda la sostanza, nessun paragone è possibile. Fausto vagolava tra le menzogne e le maniche. Ambrogio, invece, con sapienza, insegnava le vie della salvezza. Lontano dagli empi è la tua salvezza. Io, allora, facevo parte di questa categoria. Tuttavia, insensibilmente, a poco, senza accorgermene, mi avvicinavo a essa. Capitolo 14. Ambrogio insegna ad Agostino il senso spirituale delle scritture. Dunque, non mi interessava apprendere ciò che Ambrogio insegnava, ma il piacere di ascoltare come lo diceva. Ero sfiduciato. Nuovo non avrebbe mai potuto trovare la strada per giungere a te. Mi era rimasto solo il gusto di ascoltarlo. Ma insieme alle sue parole che ascoltavo con piacere, scendevano nel mio animo quegli argomenti verso i quali mi mostravo distratto. Non potevo evitarlo. E mentre aprivo il cuore alla sua predicazione feconda, vi entrava pure la verità che insegnava, sia pure per gradi, goccia a goccia. Per prima cosa cominciai a capire che gli argomenti che esponeva Ambrogio era possibile accettarli. E anche riguardo alla fede cattolica mi convinsi che era possibile sostenere quanto affermava, mentre fino allora avevo creduto che niente si poteva opporre alle tesi di Manichei. Specialmente quando sentivo Ambrogio risolve, una dopo l'altra, le difficoltà che si incontrano negli scritti del Vecchio Testamento, perché presi così la lettera uccidono. La lettera uccide, lo spirito dà vita. Questa esposizione spirituale e non letterale di molti passi della Sacra Scrittura incideva sul mio atteggiamento, sostenuto fino allora, per cui avevo creduto che nessun argomento poteva opporsi a coloro che deridevano la legge e i profeti. Tuttavia non me la sentivo di aderire alla fede cattolica, benché anch'essa disponeva di dotti assertori, che esponevano la dottrina con eloquenza di parole e la difendevano con argomentazioni rigorose. E non riuscivo ancora a condannare del tutto le dottrine manichee. I due fronti opposti si equivalevano. Sì, la fede cattolica non mi sembrava sconfitta, ma non mi appariva ancora vittoriosa. A questo punto mi misi in impegno a cercare argomenti per confutare le teorie false dei manichei. Se fossi riuscito a concepire una sostanza spirituale, sarebbero crollate tutte le loro tesi, e io mi sarei liberato da quelle fandonie. Purtroppo ancora non ci riuscivo. Per quanto riguarda questo mondo fisico e la natura delle cose che cadono sotto i nostri occhi, mi convinsi ogni giorno di più che le teorie in proposito della maggior parte dei filosofi erano assai più attendibili di quelle dei manichei. Così, secondo il costume degli accademici, i quali, come si dice, dubitano di tutto, anch'io ero attanagliato dal dubbio e sempre alla deriva da una dottrina all'altra. Decisi intanto di abbandonare definitivamente i manichei. Infatti non avevo più dubbi che le loro teorie fossero ormai superate da quella di filosofi più attendibili. E tuttavia non me la sentivo di porre tutta la mia fiducia in questi filosofi, perché nei loro scritti non trovavo il nome del nostro Salvatore Gesù Cristo. Decisi dunque di rimanere ancora catecumeno nella Chiesa Cattolica, raccomandatami dai miei genitori, in attesa che si accendesse una luce di certezza sulla cui scia indirizzare il mio cammino.